Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Nelle ultime settimane molto si è dibattuto della limitata capacità di effettuare e analizzare tamponi, di mettere in atto uno screening a tappeto alla ricerca tramite l'individuazione degli anticorpi delle persone che hanno superato la malattia e che quindi, essendo immunizzate, potrebbero tornare a lavorare. Si è parlato della difficoltà a mettere in campo concretamente, per esempio, pezzi di ricambio e macchinari medici realizzati con tecnologie come la stampa 3D a causa della mancanza delle necessarie certificazioni e di altro ancora. Nel frattempo l'attenzione dei media si è concentrata su quella parte della ricerca scientifica che oggi è impegnata a cercare farmaci contro il Covid e a sviluppare un vaccino. Ma il ruolo dei ricercatori nella lotta contro l'epidemia può essere più ampio. Per esempio, personale esperto e attrezzature di laboratorio normalmente dedicate alla ricerca potrebbero in questo momento coadiuvare il lavoro di laboratori di analisi e quello anche dei certificatori. Si potrebbe obiettare che è un po' come chiedere a degli chef di fare i cuochi semplici, ma di cuochi abbiamo disperato bisogno in questo momento. E allora il CNR lo scorso 3 aprile ha pubblicato un documento che mi pare vada proprio in questa direzione e ne parliamo con il presidente del CNR Massimo Inguscio. Buonasera Inguscio. Buonasera. Allora, intanto le chiedo, iniziando da quello che sembra il tema più urgente, insomma, quello della mappatura dell'epidemia, che ruolo pensate di poter giocare? Allora, il CNR in questa grave e importante avventura lavora in ricerca per capire le origini, per fare in modo che queste cose non si ripetano, oppure per controllarle. Però, come lei ha detto, il CNR ha anche una distribuzione di istituti su tutto il territorio italiano, ha molti ricercatori, tecnologi, tecnici ed ha ovviamente grandissima voglia e volontà di collaborare con le istituzioni per fare squadra, perché siamo tutti sulla stessa barca. Quindi le nostre iniziative come immediate sono svariate. Per esempio in Lombardia abbiamo il nostro nuovo istituto di scienze e tecnologie chimiche, proprio a Milano, che è attivo nel produrre disinfettanti per strutture ospedaliere oppure reagenti, insomma sempre di chimica si tratta. I nostri ricercatori stanno lavorando con passione a questo. L'Istituto di Fisiologia Clinica che abbiamo in Toscana interviene per ripartire un pochettino i vari compiti nelle varie strutture del sistema, però lo stesso istituto è attivo in Calabria e lì abbiamo alcune unità di personale che pronti per fare nuovi sensori, e stanno già facendo, per maschere filtranti di nuovo tipo o anche per intervenire per fare diagnostiche con tamponi e cos'altro. Abbiamo iniziative per esempio per l'analisi di tamponi, abbiamo una decina di unità in Trentino, a Trento, il nostro istituto di biofisica. Oppure a Cefalù in Sicilia c'è disposizione di locali e di attrezzature, però ci vuole anche un rapporto formale con delle istituzioni per capire cosa fare, perché se no ognuno lo fa in maniera spontanea e non può farlo. E quindi con la Lombardia questo sta funzionando. Fra l'altro abbiamo anche ormai dei progetti di ricerca di due tipi, uno è proprio legato ai sviluppi di nuovi ventilatori oppure maschere dove si usano nanoparticelle che non solo filtrano ma anche appunto uccidono il virus. In Puglia il nostro istituto di biomembrane e biotecnologie molecolari lavora e ci sono alcune unità di persone pronte ad intervenire sullo studio di cluster appunto virali del Covid-19 con i Covid-19 pugliesi, e per questo è in corso la stesura di un accordo con la Regione Puglia. In Campania abbiamo la stessa scena, stiamo discutendo con la Calabria. Il CNR ha in giro competenze, certo, spesso non specifiche, ma poi alla fine un ricercatore, un tecnico sa come muoversi. C'è la disponibilità totale di ente, c'è molto volontariato, la gente vuole aiutare, certo, e aiuterà anche quando si tratterà di riprendere, certo, perché nel frattempo il CNR si sta anche dedicando a tecniche tipo capire questioni di immunità indotta, ma ecco, tutto questo vorrei che fosse ben chiaro. Noi lo stiamo facendo in pesante sinergia istituzionale, cioè insieme al governo, al nostro ministro Manfredi dell'Università e della Ricerca, ma anche al ministro della Salute, con colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità o dello Spallanzani, perché poi diciamo, le competenze, il mestiere va dato, sa, la scienza, ora si sta scoprendo la Eh scienza, no? Tutti sì. state scoprendo, tutto il sociale sta scoprendo, e noi che siamo nella scienza confermiamo il fatto che poi dobbiamo rivolgerci per la direzione a quelli che poi sanno, no? E quelli che sanno sono quelli che vengono comunque dal mondo medico e epidemiologico, quindi abbiamo bisogno, come lei sta dicendo, di avere qualcuno che ci guida, che ci coordina, da noi c'è tutta La la disponibilità disponibilità, c'è una possibile. risposta importante e anche già cose che vanno, che stanno dando i primi frutti, che stanno andando avanti. Senta, una domanda per chiudere. A me interessa capire se c'è ancora una potenza di fuoco che voi potreste esprimere che in questo momento rimane inespressa perché c'è un difetto, diciamo così, di coordinamento. Ma diciamo, c'è già, ora ci stiamo aggiustando sia noi che loro, no? Magari non è utilizzata al 100%, però io non sarei. Il mio messaggio, guardi, le posso dire, è che sono soddisfatto, diciamo, sia da come si sta muovendo il governo, per essere chiari, il governo centrale, i ministeri, gli istituti nazionali, che sono l'Istituto Superiore di Sanità, lo Spallanzani, sia per come si stanno muovendo le autorità regionali. Grazie, grazie Presidente Massimo Inguscio. Buonasera. E Grazie a voi, buonasera a tutti. allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.